vorrei comprar il bazar di Zanzibar. Andar pian pian, passeggiando per Milan, ballare con Mariannina, la polchettina, sentir nel cuor. Boom boom, lei è, boom boom, lei è. Vorrei salvar quel tal uomo in mezzo al mar. A tu per tu, far parlar d'amor Mariù, andare in carrozzella con la mia bella di qua e di là, mentre tutto questo Pippo non lo sa. Se io fossi milionario, quante cose vorrei far, 101 pazzia. Un capriccio straordinario mi vorrei pur soddisfar con gran voluta. Vorrei comprar il bazar di Zanzibar, andar pian pian passeggiando per Milan, ballare con Mariannina, la polchettina, senti nel cuore. Boom boom lei è, boom boom lei è. Vorrei salvar quel tal uomo in mezzo al mare. A tu per tu, far parlar d'amor Mariù, andare in carrozzella con la mia bella di qua e di là, mentre tutto questo Pippo non lo sa.